Europa 24. Teatro Piccolo, la Domus Efebo, la casa degli Castiamanti, la casa di Sirico, insomma, Corina Crezu, commissaria europea alle politiche regionali, ha fatto un tour a Pompei questa mattina insieme al ministro Franceschini. Fu l'Europa, ricordiamo, in piena crisi per i crolli a finanziare gran parte del progetto Grande Pompei, e oggi l'Europa torna dunque a fare il punto sugli investimenti in Italia. Un saluto da Anna Migliorati, e noi proprio da Pompei partiamo con Europa 24 e dalle parole della commissaria Crezu. La seconda fase del grande progetto Pompei marcia spedita. 61 milioni spesi, tre quarti dell'antica Pompei messi in sicurezza, numerosi cantieri aperti per il grande progetto che ha catalizzato oltre 100 milioni di euro. Stamattina il sopralluogo di Corina Crezu, commissario europeo, che ha fatto tappa anche nella casa dei Castiamanti, la casa di Sirico e nella casa dell'orso ferito. Un progetto di cui essere fieri, ha detto Crezu ai giornalisti. Una giornata importante non solo per Pompei ma per gli attrattori culturali del Mezzogiorno, per i quali si sbloccano risorse significative, circa 150 milioni, ha detto il ministro ai beni culturali italiano Franceschini, parlando di una lettera che il commissario europeo ha consegnato questa mattina. Vi mostro la lettera che mi ha consegnato questa mattina il commissario europeo, in cui informa che a seguito delle verifiche fatte ci sono tutte le condizioni per revocare l'interruzione dei termini di pagamento per il programma Trattori Culturali, Naturale e Turismo. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pompei. Commissaria che domani visiterà anche le zone colpite dal terremoto sarà anche a Norcia, dove l'Europa si è impegnata per la ricostruzione della Basilica del Patrono d'Europa. E intanto la conferenza dei presidenti del Parlamento europeo da Bruxelles ha deciso oggi di organizzare una riunione proprio a Norcia in occasione delle celebrazioni del 60° anniversario del Trattato di Roma. Ad annunciarlo è stato il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani. Non è stata ancora fissata una data precisa per la riunione di Norcia, ma presumibilmente sarà attorno al 25 marzo, quando appunto a Roma si svolgerà il Consiglio europeo dedicato ai 60 anni del Trattato di Roma. E sul fronte europeo è questa una settimana di forti tensioni sull'euro. Ieri sera anche il nuovo voto a Londra alla Camera dei Comuni per dare il via alla Brexit. Oggi due incontri importanti. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Un incontro che arriva a poche ore dal via libera della Camera dei Comuni alla legge che autorizza il governo di Theresa May ad avviare i negoziati per il divorzio dall'Unione Europea, quello in corso tra la Theresa May e il Presidente del Consiglio Gentiloni. Ricordiamo 494 i voti favorevoli alla Brexit, 122 i contrari. Ora l'ultimo passaggio del testo alla Camera dei Lord, fate il vostro dovere patriottico, ha detto a nome del governo il ministro britannico per la Brexit Davis, e di tempi e condizioni dell'uscita di Londra dall'Unione non si può non parlare nell'incontro, lo dicevamo. May, Gentiloni, è assolutamente vitale nell'interesse nazionale britannico che l'Unione Europea abbia successo, ha anticipato intanto in un'intervista alla stampa la May. Continueremo ad essere partner affidabili e stretti alleati dell'Italia e degli altri paesi europei, ha aggiunto la premier britannica. Al centro dei colloqui inoltre le crisi del Medio Oriente, Siria, Iraq, conflitto israele-palestinese, la questione dei migranti nel Mediterraneo e la Libia, il ruolo della Russia di Putin e la nuova politica di Washington, afferma Trump. A breve poi altro importante incontro, questa volta a Berlino, si vedranno la cancelliera Angela Merkel e il presidente della BCE Draghi. Sul tavolo il tema dell'Europa a due velocità, ipotizzato proprio dalla Merkel. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. C'è anche però quella che pare, almeno ad ora, una brutta notizia, perché sembra sgonfiarsi l'idea di regalare un pass Interrail europeo a tutti i neodiciottenni dell'Unione. Un aiuto da Bruxelles ai viaggi dei giovani studenti arriverà, ma non in termini così ambiziosi. Una proposta a cui la Commissione ormai sta lavorando da mesi è nata dal Parlamento europeo: dare gratis un pass a tutti i ragazzi al compimento dei 18 anni. Il costo però di una simile iniziativa è stato calcolato ora è di 2,3 miliardi di euro. La dotazione attualmente a disposizione per il progetto pilota è di 2,5 milioni che saranno presi dagli extra stanziati a novembre per il programma Erasmus Plus, progetto che però garantiscono comunque andrà avanti. Noi per il momento invece ci fermiamo qui. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Torneremo come sempre a parlare d'Europa questa sera alle 21, Europa Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.